Il nostro esercito disonorato è disperso. Di nuovo, eccomi solo con il mio alla banda. Addio, Timo. Io ti avevo promesso una Grecia e non ricevi invece che un lamento. Sii tu stessa il tuo proprio conforto. Cara, se fatto intorno a me un gran buio, come può esistere il sacerdote se il suo Dio non è più? Anima della Grecia, devo scendere a cercarti nel regno dei morti. E noi, Diotima, quando ci rivedremo noi, millenni, me ne andrei tra gli astri. Vestirei le fogge tutte e tutti i linguaggi della vita per incontrarti una volta ancora. Molto perduto in questo mio alabanda. Una tempra romana come questa io non l'ho più trovata. Sì, muori, muori! Il tuo cuore è abbastanza magnifico. La tua vita è matura come grappoli d'autunno. Alabanda! Alabanda! Distruggere progetti, desideri, voglio essere puro come si conviene a un artista. Tu sorridi alla banda, ai nostri primi tempi sorridevi così, se il tuo fanciullo ti parlava, ebro di giovinezza e stavi come tranquilla una colonna di tempio nella rovina del mondo, e lasciavi che i rami selvaggi del mio amore ti crescessero intorno. Vedi come la benda cade dai miei occhi e tornano i vecchi giorni d'oro. Ah, quella gioia, e adesso questa gravità della vita, le nostre cacce nella foresta, i bagni nel mare, e si cantava e si beveva, e all'ombra dei lauri il sole, il vino, gli occhi splendevano, e il nostro spirito illuminava come un cielo assolato la felicità della nostra giovinezza. Lucenti errate in tenui campi, geni beati, lievi, celesti aure vi sfiorano splendenti come le corde sacre di musica, le dita senza fato respirano i celesti come adormito al seno, il nuovo nato, timida, chiusa, in boccio, innocente, fiorisce l'anima. Beati guardano gli occhi, eterna luce, calma, ma noi è dato in nessun luogo posare, vaniscono, i mortali ciecamente precipitano da un'ora nell'altra come acqua montana, perenne rovina di roccia in roccia.